Sono spazi che abbiamo cominciato a progettare nel 2018, che finalmente oggi siamo in grado di aprire. Spazi che guardano a Bologna nella sua dimensione grande metropolitana, tenendo insieme dati, informazioni scientifiche, ricerca storica e anche i racconti dei cittadini. Questo è un po' l'obiettivo di questo lavoro, che è un po' anche l'obiettivo della Fondazione Innovazione Urbana, un progetto nato nel 2018 da Comune e Università, e non a caso in questo percorso, su questo percorso hanno lavorato 6 dipartimenti diversi dell'Ateneo e contemporaneamente hanno lavorato designer e architetti e la stessa Fondazione Innovazione Urbana naturalmente. I cittadini potranno visitare questo spazio entrando da Palazzo d'Accursio e contemporaneamente anche entrando da Sala Borsa. Negli orari di apertura di Sala Borsa troveranno 5 ambienti diversi, uno dedicato alla storia della città, un altro invece alla storia del Novecento della città, un altro ambiente immersivo in cui è possibile immergersi nella città metropolitana, in alcuni luoghi significativi della città metropolitana, la casa dei dati, dove il grande plastico della città è il supporto per proiezioni che riguardano dati e informazioni sulla città di Bologna, supportato da infografiche che in maniera molto semplice delineano quelli che sono gli elementi principali della città, e poi 2 spazi di approfondimento, uno spazio dedicato all'Atlante Urbano e ad alcuni video che raccontano il Novecento bolognese con la voce degli abitanti, e un altro spazio invece in cui è possibile cimentarsi nella progettazione di alcuni spazi pubblici supportati da una serie di documenti e di informazioni legate a progetti già realizzati sia nella città di Bologna che in Europa che in ambito internazionale. Quindi un progetto che possiamo dire guarda a Bologna in modo nuovo, tenendo insieme una visione internazionale e una attenzione particolare agli abitanti della città. Data la collaborazione fra Università e Fondazione Innovazione Urbana, nella prospettiva della situazione abitativa degli studenti, la Fondazione sta pensando o sta facendo delle riflessioni in questo senso o sta progettando di fare qualcosa? Uno degli ambiti trattati dalla mostra è proprio la ricerca Housing Bo, che è una ricerca prodotta dall'Università insieme alla Fondazione, ma insieme anche al Consiglio degli Studenti. In questo Atlante il primo capitolo è proprio dedicato al tema della casa, visto dal punto di vista degli studenti. Sono stati somministrati questionari in più, diciamo, più volte. Il risultato appunto di questi questionari, di questa ricerca, è rappresentato in quello spazio. Naturalmente ciò che si vede è una città molto abitata dagli studenti, con alcuni luoghi più abitati e altri meno, ma una forte diffusione degli studenti in tutta la città e una serie di richieste che vengono sia per una migliore accessibilità economica agli alloggi, ma anche dal punto di vista della mobilità e dei servizi. Di fatto la ricerca è un primo passo, poi per affrontare il tema in maniera strutturata direi che è un lavoro inedito che non era mai stato fatto. Ultima cosa, quindi la metodologia di questa ricerca quale sarebbe? È una ricerca che ha visto il Dipartimento di Sociologia costruire, diciamo, il questionario insieme agli studenti. Sono stati somministrati nella prima versione penso 13.000 questionari, poi chiaramente è arrivata la pandemia, quindi la situazione è cambiata e la ricerca è in costante aggiornamento. Come dicevo, naturalmente questo è un primo passo di un lavoro che deve portare poi anche a individuare una serie di interventi e politiche. Alcuni di questi interventi alla fine dello scorso mandato erano stati messi in campo sia da parte dell'università che da parte dell'amministrazione. Sarà da verificare poi adesso nel nuovo mandato di università e amministrazione come questo lavoro potrà, diciamo, influire sulle nuove politiche.